È con noi Andrea Cirla di Fil Rouge Media per parlare del film The Escape di Dominique Savage in uscita in sala il 21 giugno. Andrea, ben trovato. Trovato te e a tutti gli ascoltatori. Buon pomeriggio. Lo descriviamo? Allora, The Escape è decisamente la quintessenza del film indipendente europeo. Questo penso sia un modo di approcciarlo piuttosto congruente con il fatto che si tratta di un film prodotto da piccoli produttori indipendenti inglesi e dalla protagonista medesima, Gemma Arterton, un'attrice molto famosa, e per la prima volta si è voluto cimentare in una produzione più piccola, nel ruolo di produttrice, per realizzare un film ritagliato su un personaggio molto forte che voleva a tutti i costi interpretare. Sì. Senti, la storia. La storia è la storia di una madre di famiglia molto realizzata apparentemente, con un marito brillante di successo, interpretato da Dominic Cooper, che a sua volta è una figura importante del cinema inglese. Un marito anche affettuoso, molto bravo con i bambini, bravo e impegnato nel suo lavoro, ma non uno yuppie aggressivo, un tipo di manager che si vedono in altri film. Sostanzialmente un buon padre di famiglia che chiaramente dedica però tanto tempo al lavoro e in casa ha un ruolo più defilato, esclusivamente di compagno di giochi dei bambini, solo parzialmente impegnato a educarli, ha lasciato sostanzialmente le mansioni più forti e anche più impegnative nel governo della famiglia integralmente sulle spalle della moglie, che da giovane donna anche brillante con una certa vivacità di carattere, si ritrova molto sacrificata esclusivamente sul ruolo di madre nell'accudimento puro di questi bambini. Piano piano si capisce che tutto il contesto intorno a lei, compreso il marito, inconsapevolmente finisce per relegarla sempre un po' più in un angolo e senza voler esercitare su di lei, diciamo, un approccio maschilista o un potere più patriarcale di altre generazioni, proprio per una incapacità di inquadrare esigenze di vita diverse, finisce per lasciarla un po' ai margini e mancare anche affettivamente nei suoi confronti. Motivo per cui questa protagonista entra pian piano in una crisi psicologica, è giusto definirla così, non una grave crisi, diciamo, di contesto psichiatrico, di depressioni molto forti. Per questo il film è particolarmente originale, perché cerca di descrivere una situazione che è un po' più frequente, non di chissà quale pressione mentale o appunto deriva più patologica, ma una situazione di vita Di a insoddisfazione. realizzarsi più di frequente, di estremo sacrificio di una donna che appartenendo a un'altra generazione ha chiaramente una spinta a vivere il suo ruolo nella società e anche rispetto al marito e alla famiglia più a 360 gradi, ma una serie di circostanze glielo impedisce. Andrea, quali sono gli elementi del film che più ti hanno colpito in maniera positiva? L'approccio del regista, che Dominic Savage era stato anche uno dei bambini terribili con cui Barry Lyndon nell'omonimo leggendario film di Kubrick aveva avuto a che fare, uno dei figli appunto della bellissima Marisa Berenson che tutti ricordiamo. Ha avuto un approccio molto intelligente perché da un lato con uno stile molto delicato, sottile, anche minimalista per certi aspetti, ha sottratto pathos a una situazione di sofferenza psicologica tenendola sul giusto tono. E dall'altro lato ha provato a abbinare, cioè è riuscito secondo me, chiaramente un giudizio soggettivo, ha provato a abbinare anche un altro aspetto, non solo questa sofferenza che pian piano è entrato nella sua vita, ma anche il grande impulso a ritrovare una libertà e il desiderio di costruirsi negli spazi per sé. Adesso poi, lungi da me raccontare tutta la trama del film, ma il titolo già dà un'indicazione abbastanza precisa di escape, perché nel corso della storia, a un certo punto, per bisogno di ritrovare un po' di tranquillità, di impulso, segue però questa necessità di prendersi uno spazio per sé, allontanandosi da casa per qualche giorno, per andare a Parigi. Sì. Dopodiché non racconto altro sullo sviluppo della trama. Andrea, che distribuzione sarà? Siamo una distribuzione a nostra volta molto molto indipendente, tanto quanto i produttori. Sarà una distribuzione molto concentrata sulle aree metropolitane, dove questo tipo di cinema trova più spazio, soprattutto la prima settimana, quella della cosiddetta data di uscita. Dico cosiddetta perché sempre più spesso questi film affrontano un percorso a tappe più sperimentale rispetto al passato e entrano in una dimensione di presentazioni speciali e mini eventi d'autore in tante città diverse. All'apertura presidiano appunto di più le grandi città, in questo caso uscirà al Cinema Eden e Roxy a Roma, al Corallo a Genova, al Filangieri a Napoli, Cinema Ambrosio a Torino, a Firenze al Fiorella e all'Odissea di Cagliari. Quindi abbiamo coperto, siamo molto contenti, diverse aree d'Italia e tutte le città più importanti in queste aree. Bene, ricordiamo The Escape di Dominic Savage in uscita in sala il 21 giugno per Fil Rouge Media. Un saluto e un ringraziamento ad Andrea Cirla. Andrea, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, grazie a te a tutti. Grazie, ciao.